sheds a very bright spotlight on the work that. Il premio accende i riflettori su un campo di ricerca che noi abbiamo portato avanti. E questa è una cosa positiva. Il mio collega ed io lavoriamo su un'area chiamata configurazione dei mercati, una materia piuttosto nuova in ambito economico. E sono sicuro che questa mattina a lezione i miei studenti saranno più attenti del solito. Penso che non si possa essere un economista se non si presta attenzione a tutte le cose interessanti che non capiamo e che riguardano l'economia. Questo è un premio al lavoro riguardante il matching, la teoria delle allocazioni. Alcune delle cose più importanti che facciamo nella vita, dall'andare all'università allo sposarsi, fino a trovare un lavoro, funzionano con il matching. Penso che sia una cosa molto interessante ed è un privilegio aver potuto studiare questo meccanismo. Ho ricevuto la notizia questa notte. In realtà stavo dormendo. È suonato il telefono nell'ufficio di mia moglie, che non ha fatto in tempo a rispondere. Così hanno richiamato. Non mi aspettavo di ricevere il premio, sapevo che oggi sarebbe stato assegnato. Non ho ancora pensato a come usare parte del premio. Ora vorrei un caffè.